Nu giorno spassiggiava in rosa bella di mamma. Nu giorno spassiggiava piramiglia ed ascondava na rosa bella di mamma. Ad ascondava na tutta sudata di rosa bella di mamma, tutta sudata di la quadriglia. Nella d'un poco da quel rosa bella di mamma, nella d'un poco da questa langella. Già risponde cue rosa bella di mamma chi già risponde con una grazia bella viene alla mia celle rosa bella di mamma ti dognula que puro la mia vita. Aprimi bella cae rosa bella di mamma alla promessa che mi ha dato. Io su di questa rosa bella di mamma ta. Io su di questa di foreria rosa bella di mamma tu sei di foreria sguardi di mura già di tu regge la rosa bella di mamma ta. Già di tu regge la saputa fare sa venire lui rosa bella di mamma ta. A sa venire lui ti ambo di l'uva. Quando le giovine di rosa bella di mamma ta. Quando le giovine di vanno fora. Tutta una vita toglie rosa bella di mamma ta. Tutta una vita taglio di baciara.